Senta, Presidente, lei è pronto ai tagli? Perché anche per le regioni si prospetta un taglio della spesa, o fa come tutti che dice noi abbiamo già dato? No, io credo che, ma guardi, ho davanti un giornale locale che mi descrive la situazione drammatica di un 49enne disoccupato, una tragedia a Carrara, ha buttato la madre dalla balaustra del terrazzo e poi si è buttato anche lui. 80.000 persone sono affette dall'Alzheimer e giustamente Manlio Matera, presidente dell'AIMA, dichiara che la sanità pubblica fa poco per queste persone, ed è verissimo, anche in Toscana, dove pure abbiamo fatto un progetto per la non autosufficienza e ce ne stiamo occupando. Cioè, voglio dire, la qualità della spesa secondo me può essere sempre ricercata e ci sono tante cose su cui si può eliminare gli sprechi, su cui si può fare meglio, aumentare l'efficienza, la produttività. Noi siamo disposti a discutere con il governo nazionale. Io più di una volta ho detto che è necessario dotarsi di un set di obiettivi e su questi obiettivi misurare anche le regioni, Sì. vedere se riescono a raggiungere gli obiettivi appunto di efficienza, di qualità, di eliminazione degli sprechi. Però di qui a parlare di tagli, la sanità ha già fatto dei pesanti tagli nell'agosto del 2011 con la manovra Berlusconi. Sono 8 miliardi quelli che ci sono venuti addosso nell'arco di 3 anni, che Quindi non è poca non è cosa. pronto ad accettare, sì, razionalizzazione, ma non ulteriori fondi da Io tagliare. credo che parlare di tagli al sociale e alla sanità in questa situazione sia molto difficile. Bisogna combattere assolutamente gli sprechi. Io penso che si può far meglio assolutamente anche nella mia regione. Sono veramente disposto a discutere, non ci sono problemi. Sì, se una siringa costa 2 centesimi di Assolutamente. costo standard e in alcune ASL viene pagata 65 centesimi, c'è È qualcosa che chiaro non che va, per bisogna esempio. metterci le mani. Se nella mia regione i dirigenti medici sono troppi, bisogna metterci le mani e nell'arco di un anno, quello che occorre, forse meno, un anno e mezzo, riportare la situazione entro determinati parametri. Io confido che ci deve essere un ruolo del Ministero della Salute, però i parametri finora sono sempre stati solo parametri economici. Bisognerebbe entrare di più nel sottile, quindi cominciare a vedere appunto, come lei diceva, gli acquisti, oppure se vogliamo i giorni di licenza, oppure se vogliamo quanta popolazione viene ricoverata. Io sono molto forte, ad esempio, sul numero dei ricoverati su 1.000 abitanti, io nel senso di Regione Toscana. Possiamo migliorare però i tempi della degenza preospedaliera. Se faccio un benchmarking tra le aziende sanitarie, ce ne sono alcune eccellenti e altre che dovrebbero invece fare dei passi avanti. Però, Quindi Presidente, tutto mo questo si può no, fare. modello sanità toscana, per esempio, anche 2 mesi fa so che hanno arrestato dei dirigenti a Massa, so che a Pistoia c'è qualche problema all'ASL in cui si Ma indaga. la Toscana non è fuori, diciamo, dall'Italia. Ecco, se le devo parlare della Lombardia, della Calabria, del No, Lazio, infatti, anche l'Emilia-Romagna ci perché la sono. sanità è questo buco La nero sanità. di Ma soldi? guarda, questo io penso che vada visto con la dovuta serenità. In sanità lavorano qualcosa come 55.000 dipendenti diretti solo in Regione Toscana, più gli indiretti. È un grande mondo dove è possibile che ci siano anche dei mascalzoni e dei ladri. Noi li abbiamo denunciati. Ecco, la differenza che spesso fa tra la Toscana e le altre regioni è che in questo caso io mi sono recato in procura e ho denunciato quei signori che poi lei dice sono stati arrestati. Non mi sembra che altrettanto sia avvenuto in altre regioni, insomma, ecco, quindi a me la parola modello non piace, perché un modello dà l'idea di qualcosa di chiuso. Però, insomma, rivendicare alcune prerogative dell'esperienza della sanità in Toscana, questo lo faccio e credo di farlo francamente a ragion veduta. Per esempio, noi abbiamo anche Sì. certificato tutti i bilanci, tant'è che il caso di Massa emerge nel corso della certificazione dei bilanci. Io parlo ad un giornale, ad una radio che fa riferimento ad un giornale economico. La certificazione del bilancio, insomma, per un'azienda, lo Beh, domanda ad un è un imprenditore, punto importante. è un passaggio delicato, è un Senta, passaggio. Presidente, no, ma le chiedo questo: vogliamo, non so, accorpare qualche tribunale, accorpare qualche ospedale? Cioè, Monti dice Ma io presumo. non si può più tirare a campare. No, non si può più tirare a campare, questo io sono d'accordissimo, sono d'accordo perché ad esempio noi abbiamo proposto che in Toscana, ad esempio, le province siano 3 e non 10 come sono attualmente. A volte ci siamo anche fatti nemici tra gli stessi, diciamo, dirigenti amministrativi e politici delle province. Quali dovrebbero essere? Io penso che vadano assolutamente accolpati, ma perché non pensare ad accolpare anche la Toscana, se facciamo riferimento, diciamo, alle grandi aree vaste della Toscana, si divide in 3 parti, quella tirrenica, quella fiorentina centrale e quella del sud. Perché non pensare anche ad accolpamenti di prefetture e di tutti gli altri apparati decentrati? Ma perché appena se ne parla la politica, anche oggi dai giornali c'è una è refrattaria, questa ragione, no? Questa ragione. E quindi correggo anch'io sulla sanità, diciamo, sulla base del suo appello, alcune affermazioni. Ci riunisca il governo intorno ad un tavolo, dia il tempo preciso per fare delle valutazioni. Noi crediamo di poter dire che i livelli essenziali di assistenza in sanità non possono essere abbassati, che la sanità ha questa partita enorme della non autosufficienza che bisognerebbe saper affrontare, invece si sta facendo poco. Ma ciò detto, assolutamente favorevoli a vedere punto per punto dove si può risparmiare e dove ci si può riorganizzare. Perché vuole tre province? Vuole. Ma lei se lo vede un pisano e un livornese accorpati come province? Prima battuta, giustamente, l'ho fatta anch'io. Appunto, non sono più 3 province, sono 3 aree vaste dentro cui gioco forza ci sta un pisano e un livornese, anche perché quest'idea delle 3 aree addirittura risale all'impostazione napoleonica, c'era un'area tirrenica, un'area della costa, un'area del sud, la Toscana dell'Ombrone, il dipartimento dell'Ombrone e poi il dipartimento del centro. Io penso che lo Stato potrebbe riorganizzarsi con una serie di funzioni intorno a queste 3 aree, mantenendo alcune prerogative che adesso sono della provincia, un'istituzione d'area vasta, ma anche riorganizzando, sì, come si diceva prima, prefetture, tutto. Insomma, accorpare. No, ma lo dica, perché è la politica qua che bisogna. Monti lo farebbe, credo, in 2 secondi. Mi faccia fare 2 domande flash sulle primarie del PD. Lei sta con Bersani o con Renzi? Io sto con Bersani. E Renzi che gli dice a Renzi? Che faccia bene il sindaco. Lo fa bene, secondo lei? È eletto da poco sindaco, solleva giustamente un problema di rinnovamento del partito. Io credo che questo problema ci sia e sia fortemente sentito dagli elettori. E sia un problema che deve stimolare molto anche Bersani, l'attuale gruppo dirigente. Renzi ha ragione quando dice che bisogna cambiare. Però bisogna avere anche rispetto per chi ci ha preceduto, questo non guasta, non ci si costruisce una fortuna, diciamo, demolendo. Sì. Ma faccia bene il sindaco, ma lo sta facendo bene o deve far meglio? Sì, credo di sì, è un vivace, fa delle cose, ha reso molto più dinamica la situazione di Firenze e mi sembra che riesca a rappresentarla in maniera positiva, insomma, anche a livello nazionale. Mi sembra che tutto ritengo che tutto abbia una evoluzione, insomma, in qualche modo. Non è un affronto dire a una persona che è stata eletta da 3 anni sindaco provi a fare il sindaco, ecco. almeno per altri due anni. Mi sembra fino al 2015, insomma, concluda questa esperienza facendo del bene alla città e cercando di risolvere i problemi che non sono pochi di una grande città. È che lui scalpita perché ci sono le elezioni prima nel 2013 e quindi ma se scalpita lui, allora quanti altri avrebbero diritto, no? È un po' così la politica, anche delle regole in fondo scritte o non scritte. In questo caso sarebbero scritte quelle che appunto prevedono che il nostro segretario sia candidato unico in caso di primarie nel centro-sinistra, e poi ci sono anche le regole non scritte ma che stanno nel buon senso, per cui, insomma, se uno si assume la responsabilità di guidare un'istituzione importante, quantomeno dovrebbe cercare di arrivare a fine mandato. L'ultima domanda è questa. Anche questo, diciamo, è una regola che, sì, come dire, in contrasta politica un po' con il pensionismo politico, perché ad esempio il mio predecessore Martini, sì, da 2 anni che ormai, come dire, non fa più nulla. Ecco, se invece avesse voluto lui, ad esempio, provare a candidarsi forzando alle elezioni europee e rinunciando ad un anno di legislatura, avrebbe mandato la Toscana al voto un anno prima, ma sarebbe sicuramente andata al Parlamento europeo. Però non l'ha fatto. L'ultima domanda. Comportato seriamente. L'ultima domanda è questa: visto che lei non è mai stato tenero col governo Monti, ma secondo lei Monti porta sfiga? No, penso proprio di no. Non sono stato tenero, io credo che Monti fa cose diverse da quelle che potrebbe o dovrebbe fare un governo di centro-sinistra. Ha salvato quel paese, e ho sempre detto che la manovra che ha fatto andava sostenuta. Non penso che le liberalizzazioni da sole siano sufficienti, anche se le potrei parlare un quarto d'ora sul fatto che la Toscana primeggia per le liberalizzazioni previste dal decreto Monti. Credo che adesso dovrebbe, insomma, provare a correggere in direzione di maggiori investimenti. In fondo anche Confindustria dice che da sola la politica del rigore non basta, no? E credo allo stesso tempo che bisogna stare attenti, quando si parla di spending review, a intervenire con il bisturi e non da parte l'accetta. Mi riferivo soprattutto alla partita di calcio, no? Questo è stato il titolo. Povero Monti, no. Poi lo capisco, anch'io mi occupo poco di calcio, quindi un certo suo imbarazzo, insomma, è lo stesso che avrei provato io a vedere una partita della Fiorentina. Chiaro.